Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio, eccoci di nuovo insieme. Ve lo abbiamo preannunciato ieri, da ieri è in edicola con il Sole 24 Ore l'Instant Book su un tema che vi sta molto a cuore: le nuove pensioni alla luce delle novità introdotte qualche settimana fa dalla manovra di aggiustamento dei conti pubblici, che tra l'altro poi nel corso delle giornate è diventato davvero il nostro tema principe, uno dei principali temi di Salva Danaio. Lo abbiamo sviscerato questa manovra in ogni dettaglio. Oggi torniamo sulle misure contenute nel decreto legge 78 che fanno slittare di almeno un anno e mezzo, a seconda che si sia un lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, la pensione a chi raggiungerà i requisiti per andare in pensione l'anno prossimo. C'è poi un'altra grande partita, non di calcio, non in Sudafrica, che ha destato grande preoccupazione, che è quella dell'erogazione della liquidazione ai dipendenti del pubblico impiego, la famosa modalità a rate che ha destato, come è facile immaginare, un po' di malumore fra i diretti interessati. C'è poi l'altro grande tema sollevato di peso dall'Unione Europea, che ci ha imposto di elevare l'età pensionabile per le donne della pubblica amministrazione. Dal 2012 arriverà anche questo grande cambiamento in Italia. Allora, intanto quest'ultimo tema almeno per oggi lo vorremmo lasciare da parte perché non è stringente, vorremmo affrontare invece le novità di impatto più immediato fra i lavoratori che ci ascoltano e che potranno stamattina come sempre chiamarci all'800 24 0024, scriverci al 349 238 666. Stamattina torniamo a rispondere alle vostre domande su questi temi con due degli autori della guida del Sole 24 Ore, che vi ricordo non è allegata al quotidiano, la dovete chiedere direttamente in edicola. È una guida pratica, si chiama proprio Le nuove pensioni, le donne nel pubblico impiego, le finestre d'uscita, la totalizzazione, 200 domande e risposte, costa 4,90 euro, così nella massima trasparenza vi do tutte le informazioni, ma dovete chiederlo in edicola perché non è allegato, appiccicato alle Sole. Allora, stamattina vi dicevo con noi due consulenti che hanno contribuito alla stesura di questa pubblicazione: Tommaso Siracusano, consulente del lavoro, che saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina. Dottor Siracusano, benvenuto a Salva Danaio. Grazie, buongiorno. E buongiorno anche ad un altro nostro consulente aziendale, in questo caso specializzato nel settore della pubblica amministrazione, dottor Aldo Ciccarella, buongiorno anche a lei. Buongiorno, salve. Eccoci qua. Allora, vi ho ricordato i numeri per intervenire, adesso andiamo rapidamente a controllare in borsa cosa succede. Vi abbiamo già detto di questa giornata piuttosto curiosa sui mercati europei, partiti male dopo i rialzi di ieri, hanno risalito la china rapidamente e adesso sono tutti non solo positivi ma anche ampiamente positivi, perché guadagnano oltre mezzo punto percentuale Londra e Francoforte, Parigi più 0,7, Milano più 19%, un mercato che oggi non si interessa affatto del tema dell'abbattimento del giudizio sui titoli di Stato greci operato ieri sera appunto da Moody's, che ha detto i titoli di Stato della Grecia sono spazzatura, quindi preoccupazione già accantonata. E poi lo ZEV tedesco, un indice di fiducia della Germania molto importante, negativo, pesante, mercato se ne disinteressa. I dati sulle immatricolazioni auto in Europa, pesantissimo, mercato lascia da parte anche tutto questo. Quindi stamattina vedo che proprio c'è un'impostazione positiva, gli investitori preferiscono probabilmente acquistare di peso tutti quei titoli che hanno trascurato abbondantemente nelle ultime settimane, che di conseguenza sono diventati ampiamente sottovalutati. Milano oggi preferisce Mediaset più 3,48, Fondiaria più 2,14, STM più 2, Unicredit più 1,96, Banca Monte dei Paschi più 1,86%, Exor, quindi Grazia Fiat, più 1,85%, gli stessi titoli del Lingotto stanno guadagnando lo 0,60%, in negativo abbiamo solo Geox che perde l'1,7% perché è penalizzato da un report positivo degli analisti di UBS, Lottomatica meno 0,34, euro su dollaro di nuovo vistoso, il recupero della moneta unica europea sul biglietto verde, il rapporto adesso a 1,22,58. Questa era la borsa, adesso andiamo alle nuove pensioni. Finestre a scorrimento, liquidazione a rate, totalizzazione. Le pensioni si confermano tra i temi più gettonati della manovra varata dal governo, che ha disposto nuove regole per il sistema. Innanzitutto, dal prossimo anno le uscite dal lavoro non saranno più scaglionate in base al tipo di trattamento, vecchiaia e anzianità, ma personalizzate, di fatto unificate in una sola finestra, detta mobile o a scorrimento, che una volta maturati i requisiti si apre 12 mesi dopo per i dipendenti e 18 mesi dopo per i lavoratori autonomi. Per chi invece matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre di quest'anno, le finestre restano quelle attuali e saranno in funzione anche nel 2011. Un discorso specifico riguarda le donne che lavorano per la pubblica amministrazione, per le quali l'età per il pensionamento salirà gradualmente da 60 a 65 anni, come già concordato a suo tempo con l'Europa. Se la pensione ritarderà per tutti, un sacrificio ulteriore sarà richiesto ai dipendenti del settore pubblico. Per loro, infatti, è prevista anche la rateizzazione della liquidazione, nonché la revisione dei criteri di calcolo dell'indennità, che porterà le liquidazioni del settore pubblico a essere più leggere, in linea con quelle del comparto privato. 800240024, il numero verde per le vostre domande, ne vedo già pronte diverse, il nostro centralino incandescente su questo argomento come al solito, 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. Allora, dottor Siracusano, comincio con lei, tra l'altro fa il consulente del lavoro, mi stavo chiedendo così, ero incuriosita un po' da come si svolge anche il suo lavoro in questo momento, quali sono le domande che anche a lei fanno, oltre che a noi di Salvadanaio, su questo argomento, perché credo, come vedo già le domande che appunto stanno imperversando al nostro monitor, che c'è larga preoccupazione sul fatto che chi sta maturando i requisiti quest'anno, partiamo subito con questo punto fermo, non potrà andare in pensione con le vecchie regole. Allora, mi aiuta a ribadire con forza che tutto l'impianto nuovo parte dal gennaio del prossimo anno? Sì, intanto un saluto agli ascoltatori e certamente avete ben puntualizzato anche nella scheda che ha preceduto il mio intervento che i nuovi sistemi, le nuove finestre a scorrimento, così come vengono definite, perché proprio personalizzate in funzione della maturazione dei requisiti, vanno in vigore solo per i lavoratori che matureranno i requisiti, che non sono cambiati sia di vecchiaia che di anzianità, che appunto matureranno questi requisiti dal 1 di gennaio 2011. Quindi tutti i lavoratori che avevano già preventivato un'uscita pensionistica utilizzando un requisito che andrà a maturare comunque entro il 31 dicembre di quest'anno 2010 possono serenamente far affidamento su quanto già messo in cantiere. Ecco, tra l'altro, dottor Siracusano, sono queste le preoccupazioni che arrivano anche presso i suoi uffici? C'è chi teme di non poter andare quest'anno in pensione avendo maturato già tutto il diritto per farlo? Beh sì, diciamo che in prima battuta la preoccupazione principale è che noi come consulenti del lavoro e quindi esperti del settore ci siamo preoccupati di tranquillizzare, di sgombrare il campo da questi dubbi che hanno certamente assalito una parte dei dipendenti delle aziende che assistiamo, è stato proprio quello appunto di mettere un punto fermo, tranquilli fino al 31 dicembre 2010. Chi maturerà i requisiti l'anno prossimo ovviamente sarà di sicuro penalizzato peraltro da questa nuova modalità di uscita. Infatti, adesso poi magari ci focalizzeremo proprio su chi dovrà subire in qualche maniera la peggior penalizzazione. C'è anche da spiegare, e questo lo spiega anche piuttosto bene la guida che abbiamo citato più volte, che non per tutti ci sarà comunque un ritardo effettivo di 12 mesi, per qualcuno il ritardo sarà un po' più contenuto, ma poi ci arriviamo su questi dettagli. Il settore delle pensioni è stato oggetto di tanti interventi negli ultimi anni, riforme graduali che hanno portato appunto ad un allungamento dell'età pensionabile, ma tutto, come dicevo, è stato estremamente graduale. Una grande novità di quest'anno è stata la revisione, per esempio, dal 1 gennaio dei coefficienti di trasformazione per le pensioni del sistema contributivo e misto. Questo poi, se abbiamo tempo, lo ricorderemo, ma in ogni caso un'altra notizia piuttosto importante, anche questa ha suscitato un po' di scontento fra i diretti interessati, è che è arrivata questa novità nell'ambito della buonuscita per i lavoratori del settore pubblico, e qui chiamo il dottor Ciccarella, perché per chi dovrà andare in pensione e percepire naturalmente la sua liquidazione dovrà accontentarsi di riceverla a rate. Una rateizzazione che funziona in tre tipologie sostanzialmente, ci sono tre possibilità, dottor Ciccarella. Sì, in pratica questa rateizzazione vale per chi percepirà una liquidazione superiore a 90.000 euro lordi. All'inizio il governo aveva pensato a una liquidazione, un importo sui 24.000 euro, un po' meno di 24.000 euro, ma poi poi c'è stata una sorta di ribellione diciamo all'interno dei vari ministeri con domande di dimissioni presentate in 448 per cui, ecco. Secondo me c'è stato un freno improvviso da parte del governo che toccando le liquidazioni sopra i 24.000 euro ha toccato le liquidazioni praticamente di tutti. Di tutti quanti, quindi in sostanza il tetto è stato elevato abbastanza sensibilmente. È stato elevato a 90.000 euro, esattamente, quindi le persone più colpite evidentemente sono i dirigenti. Quadri dirigenziali, i quadri dirigenziali, i quali ovviamente con il loro stipendio e con la loro anzianità superano tale importo. La rateizzazione si svolge in un modo abbastanza semplice, in pratica se l'importo è superiore di 90.000 euro fino a 150 viene pagato in due tranche, la prima nei soliti tempi che l'Inpit ha stabilito per il pagamento della liquidazione, che ricordiamolo vanno dai 105 giorni massimo per chi cessa dal servizio per limiti di età o per anzianità massima di 40 anni o per altre cause quali per esempio il decesso, e 270 giorni invece per chi cessa dal servizio per dimissioni. Quindi in pratica questo ritardo che l'Inpitab porta avanti già dal 1997 con la legge 140 si dovrà sommare il ritardo dei 12 mesi nella prima tranche del pagamento per gli importi fino a 150.000 euro e ulteriore ritardo ci sarà per le tranche superiori a 150.000 euro perché in pratica tale importo verrà rateizzato in tre tranche. Benissimo, eccoci ritrovati in diretta, oggi parliamo delle nuove pensioni alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 78, la manovra di riaggiustamento dei conti pubblici, pensione più lontana per chi matura i requisiti dal 2011 in poi ci sono le novità per chi deve percepire la liquidazione se si era dipendenti del settore pubblico, ci sarà a seconda ovviamente della cifra da percepire una liquidazione a rate, ma naturalmente il patto è che sia più alta di 90.000 euro e però insomma qualche ascoltatore interessato anche a questa materia. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande che stamattina rivolgiamo a due degli autori della guida delle Sole 24 Ore, le nuove pensioni, uscita proprio ieri, la trovate in edicola, chiedetela all'edicolante, e sono Tommaso Siracusano, consulente del lavoro, e Aldo Ciccarella, consulente aziendale specialista in pubblica amministrazione. Allora cominciamo a sentire le domande degli ascoltatori, andiamo a Pisa da Luciano che saluto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Non ho problemi della liquidazione a 90.000 euro perché non ci arrivo, però ho problemi sul fatto della pensione. Sì. Che io ho un lavoro da quando avevo 15 anni. Sì. E ora ho 54 e mezzo, quindi ho 39 anni a luglio, agosto del prossimo anno. Quindi potrebbe andare con i 40 anni? 39 ora, 40 il prossimo. Sono un po' emozionato, il prossimo anno, sì. 40 del 2011, sì. Quindi io devo andare a gennaio del 2012, faccio l'autofero tambiere. Sì, e quindi voleva capire se per lei la finestra di scorrimento le farà allungare ulteriormente percepire l'assegno. Se non ho capito male vado a settembre del 2012 invece di gennaio, quindi mi rubano 9 mesi di stipendio che poi non aumenta le pensioni né niente. Io vorrei sapere, con tutte le cose che ho visto andare in pensione, tutta la gente ho visto andare in pensione, giovani e tutto, ora si accaniscono con chi ha 40 anni. Luciano, non è una questione di accanimento, io lo so che a voi sembra come dire inevitabile percepirlo in questa maniera, l'età media di tutta la popolazione italiana si è allungata, noi abbiamo molti più anziani da dover sostenere, per cui le risorse devono essere spalmate su più persone che vivono più a lungo. Il problema è questo, io capisco che molte persone fanno fatica a percepirlo, noi non ci stancheremo mai di cercare di far passare questo messaggio, ma il tema è questo. Luciano, lei adesso va in pensione, ma vivrà almeno per altri 40, 50, 60 anni, io glielo auguro, e questi soldi devono pagarli i nostri ragazzi e deve pagarlo un sistema previdenziale che deve allungare una coperta troppo stretta per tutti. Dottor Siracusano, le perplessità sono inevitabili, sono legate a questo, e però insomma diamo magari una risposta a Luciano che dice insomma mi rubano tanti mesi e deve aspettare ancora un po' rispetto all'idea che si era fatta lui di andare in pensione. Sì, partirei dalla premessa che lei ha già già come dire esplicitato, e purtroppo il sistema pensionistico non può prescindere da quelle che sono le normali evoluzioni dell'andamento della vita media, per cui di fatto come dire, le varie riforme che si sono succedute negli anni ne danno ampia dimostrazione, non esiste una formula perfetta e valida comunque nel tempo a prescindere dagli altri elementi che vengono a essere presi in considerazione. Detto questo, io credo che l'ascoltatore abbia correttamente individuato in effetti lo slittamento della sua uscita pensionistica, se non ho capito male ad agosto 2011. Sì, lui, raggiungi i 40 anni di contribuzione. 40 anni di contribuzione, sarebbe andato con le vecchie finestre a gennaio 2012, in effetti slitta a settembre 2012 perché sconta la previsione del DL 78 del posticipo di 12 mesi, ma la pensione di fatto decorre dal mese immediatamente successivo al compimento dei 12 mesi, quindi ha un 9 mesi di... avrebbe già avuto comunque un ritardo nell'uscita pensionistica ovviamente di 5 mesi, perché compiendo agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio sarebbe andato in pensione, ha ulteriori 8 mesi. Faccio, mamma mia, che fatica a fare i conti, quindi abbiate pazienza, magari se non siamo bravi appunto a fare un conteggio veloce, cioè io proprio neanche ci provo, quindi mi congratulo anche con Siracusano e l'elasticità mentale che hanno gli esperti del sole, che spesso disturbiamo appunto per aiutarci ad affrontare al meglio questi argomenti. Dottor Ciccarella, il nostro ascoltatore toscano di Pisa ha fatto una battuta, però io direi di prenderla per fare magari un'ulteriore precisazione relativamente alla rateizzazione della liquidazione di cui parlavamo prima, che riguarda, perché lui ha detto io non arrivo a quella cifra per cui a me non dovranno rateizzarla. In ogni caso, anche se arrivasse a quella cifra, la rateizzazione, ribadiamolo, che interessa i lavoratori del pubblico impiego. Sì, in pratica riguarda tutti i lavoratori pubblici questa rateizzazione, e scatta dopo un importo di 90.000 euro. Se l'importo, come dicevamo prima, supera i 90.000 euro, ma non è superiore a 150, viene pagato in due tranche, la prima di 90.000 euro e la seconda dopo 12 mesi per l'importo residuo. Se invece supera 150.000 euro si paga in tre tranche, la prima di 90.000, la seconda di 60.000 dopo 12 mesi. E la terza per l'importo residuo dopo altro 12 benissimo mesi. Era solo proprio per di nuovo puntualizzare il fatto che comunque si tratta di lavoratori del pubblico impiego. Allora Ciccarella, visto che ho lei in linea, adesso le faccio sentire anche la domanda di Luisella dalla provincia di Varese, che saluto. Luisella, benvenuta. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, allora andiamo al mondo della scuola, che ha comunque anche per l'erogazione della pensione un regime a sé, perché gli insegnanti non possono andare purtroppo quando vogliono, nel senso che devono rispettare anche il calendario scolastico. Ci dica, Luisella. Allora, io avrò 40 anni di contribuzione e 60 anni di età nel 2013. Dovrò sottostare alla nuova normativa oppure potrò andare in pensione normalmente? 65 anni, lei dice, come ci ha imposto l'Unione Europea. Dottor Ciccarella, possiamo aiutare Luisella? Sì. Allora, sicuramente nel momento in cui compie 40 anni c'ha la finestra d'uscita classica per gli insegnanti, che è il 1° settembre dell'anno scolastico. Quindi praticamente ci posizioniamo sul 2013, lei il 1° settembre del 2013 è fuori. Naturalmente sconta il ritardo di 12 mesi di cui parlavamo come finestra scorrimento, e per quanto riguarda la liquidazione, se è superiore a 90.000 euro, ahimè, verrà pagata con le tranche poc'anzi ricordate. Allora, benissimo Luisella, speriamo di non averle dato troppe brutte notizie per lei, di fatto però la situazione che dovremo in molti imparare a tollerare nei prossimi anni sarà questa, quindi vediamola anche in termini positivi, pensiamo anche a tutti i giovani che stanno cominciando adesso ad introdursi nel mondo del lavoro e che naturalmente già prendono degli stipendi bassi, hanno dei contratti a tempo determinato, se devono cominciare pure a versare tanti contributi per pagare le nostre pensioni, insomma, quindi dobbiamo fare un po' tutti degli sforzi, ci rendiamo conto che è molto frustrante e però dobbiamo avere un atteggiamento di grande responsabilità di fronte a questa situazione. Andrei adesso a Gianni da Vercelli, perché ci dà l'opportunità di introdurre un altro tema molto importante, cioè come dire, tutta quella rosa di eccezioni nell'ambito della finestra mobile introdotta dalla manovra. Sì, è Gianni, buongiorno, Gianni da Vercelli. Gianni sono io, ma non da Vercelli, da Venezia. Da Venezia, ma cosa hanno scritto le ragazze del centralino? Vabbè, rimaniamo sempre a Nord Italia, andiamo però dall'altro versante. Gianni, benvenuto. Buongiorno. Allora, niente, io praticamente ho già maturato i 38 anni di contribuzione a novembre dell'anno scorso. Sì. Mi mancano 2 anni e praticamente l'INPS dice che la mia finestra di uscita sarà il 1° aprile del 2012. Praticamente io entro il dicembre del 2011 avrò i 40 anni di contribuzione effettiva. Certo. Quindi cambierà qualcosa? Questa è la domanda. Mi pareva di aver capito però che lei fosse in mobilità, Gianni. Sì, perché questa è una componente firmato, fondamentale della domanda. Ecco. Io ho firmato in aprile, ho firmato la mobilità del lavoro per 2 anni. Certo. Allora, no, ho voluto puntualizzare questo aspetto perché è un tema importante, perché non tutti i lavoratori saranno costretti a ritardare il momento della pensione per via di questa finestra mobile che è stata introdotta dalla manovra. Il decreto legge 78 prevede alcune eccezioni per alcune categorie, come per esempio i lavoratori in mobilità. Dottor Siracusano, è così? Sì, assolutamente sì, infatti seguivo anch'io con attenzione il quesito perché anch'io avevo capito che si trattava di uno degli esoneri previsti dal comma 5 in effetti dell'articolo 12, che è quello che si occupa della modifica di queste delle finestre pensionistiche, dove per i lavoratori collocati in mobilità, sempre che sia stato stipulato un accordo sindacale entro il 30 aprile 2010 e che comunque maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non si applicano le nuove finestre a scorrimento. Questo è il tenore letterale della norma. Quindi Gianni, mi pare di capire che quando è stato stipulato l'accordo sindacale, da quella data dobbiamo andare a contare e verificare quando finisce il periodo di mobilità dell'ascoltatore, se entro quella data matura, e quindi mi pare novembre 2011 abbia detto, matura il requisito, non si applicheranno le nuove finestre. Sono anch'io persa un po' di date, però insomma Gianni dovrebbe essere salvaguardato dal nuovo regime. È una di quelle, di quelle categorie, come dire, che vengono fatte salve dalla norma, che come ratio, voglio dire, generale ha quella di prevedere garanzie nei confronti di quei lavoratori già di fatto usciti o uscendi dalla vita attiva lavorativa, ed evitare che abbiano un vuoto fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione, della percezione dell'assegno. Era già in essere anche per sotto altri aspetti. Ci fermiamo, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, 800 24 00 24, potete continuare a prenotare i vostri interventi, così come potete continuare a scriverci al 349 238 6666. Adesso magari cercherò di leggere anche un paio di messaggi che sono molto polemici questa mattina, gli sprechi e i parlamentari perché non si tagliano lo stipendio, lo sapete, questi sono temi che noi affrontiamo in altri contenitori, noi invece di Salvadanaio siamo estremamente pratici, andiamo a capire insomma come funzionerà il nuovo regime pensionistico. Non arrabbiatevi, cerchiamo invece di conoscere al meglio questo sistema grazie all'ausilio dei nostri consulenti. A tra pochissimo. Dottor Ciccarella, consulente aziendale, specialista in pubblica amministrazione, c'è un ascoltatore che ci ha scritto, che differenza c'è, ci chiede, non è esattamente proprio il tema di questa mattina, però siamo qui anche per aiutare chi ci fa domande magari di altro genere, ma che sono comunque come dire vicine all'argomento che trattiamo. Che differenza c'è fra il TFR e il TFS? Che in pratica sono la stessa cosa, solo che uno viene percepito nell'ambito privato, l'altro nell'ambito pubblico. Ci può aiutare a dare una definizione al trattamento servizio? Sì. Beh, la differenza è notevole, perché il trattamento di fine servizio in pratica è un'indennità, una tantum, che viene pagata sulla base degli anni di servizio utili alla liquidazione per l'ultimo stipendio o per la media dell'ultimo stipendio dell'anno in considerazione. Quindi praticamente immaginiamo che io sono un funzionario che vengo promosso dirigente l'ultimo anno, la mia liquidazione mi verrà pagata tutta con lo stipendio da dirigente. Ah, però. Quindi è evidente l'enorme vantaggio che che questo tipo di calcolo comporta, soprattutto nei confronti delle carriere dinamiche, cioè le carriere le quali prevedono degli aumenti di stipendio dovuti sia per promozioni sia dovute per particolari tipi di contratto. Infatti. Diciamo che comunque il TFS ha però una particolarità, che non tutte le voci rientrano nel calcolo di questa liquidazione, soltanto le voci fisse e ricorrenti, per capirsi, cioè le solite voci, stipendi, scatti, indennità integrativa speciale e indennità pensionabili. Mentre il TFR nell'ambito del pubblico impiego, anche questo è un po' particolare, perché mentre nel privato viene calcolato sull'ammontare anno lordo che il dipendente percepisce, in pratica è quasi l'importo del CUT se vogliamo, nel pubblico impiego anche lì viene calcolato soltanto sulle voci fisse ricorrenti. Quindi praticamente vengono fatti fuori praticamente i premi e tutte quelle voci accessorie legate, diciamo, alla produttività, legate all'andamento, al buon andamento del benissimo tempo. Abbiamo anche esaudito questa curiosità a parte di un ascoltatore, non era il tema di questa mattina, però ci sembrava interessante anche perché mi permette di agganciarmi ad un altro tema. Stamattina il presidente della Covip, Finocchiaro, la Covip è l'organismo che controlla l'andamento dei fondi pensione in Italia, sta tenendo la sua relazione a annuale, quindi ci sta facendo un po' lo stato dell'arte sulla previdenza complementare ed integrativa in Italia. Vi ricordo che questo sarà un tema che affronteremo nei prossimi giorni. Domani mattina a Soldi e Dintorni alle 8:15 ci sarà la nostra Valentina Furlanetto e io me ne occuperò giovedì a Salvadanaio, per cui monitoriamo anche l'andamento dei fondi pensione, naturalmente, perché molti lavoratori stanno dirottando il proprio TFR anche negli strumenti di previdenza complementare, vogliono sapere questa sorta di investimento per il futuro come sta andando. Andiamo ancora alle altre domande degli ascoltatori. Sentiamo Adele da Brescia. Buongiorno Adele, rapidissima, così sentiamo anche tanti altri suoi amici. La ringrazio di avermi chiamato e li ascolto sempre. Io dunque mi sono informata tramite patronato, ho fatto i 60 anni il 23 gennaio di 2010 e mi ha detto che sarei andata in pensione a ottobre 2010. Sì. Sono un'ex artigiana che ha lavorato fino al 2006 perché per motivi di salute ho dovuto smettere e niente, volevo sapere se per me era la cosa era invariata o se devo preoccuparmi. Adele, a parte se anche fosse slittato di qualche mese tutto più, ecco, avrebbe avuto un po' di disappunto, ma la pensione slittava. Comunque, avendo maturato tutti i requisiti quest'anno, dottor Siracusano, Adele non deve preoccuparsi, può dormire sonni tranquilli. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'abbiamo detto all'inizio, lo ribadiremo fino alla fine. Infatti. I requisiti maturati entro il 31 dicembre del 2010 danno diritto all'utilizzo delle vecchie uscite, delle vecchie finestre. Anche Paolo da Terni è preoccupato, stessa situazione, un lavoratore autonomo, un artigiano, matura i requisiti a settembre di quest'anno. Paolo? Paolo? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora, senta, io sì, però non è come, io ieri sono stato dalla CNA, io maturo i 40 anni nel settembre 2010, sì. Sarei dovuto andare in pensione con la finestra del 1 aprile 2011, sì. Invece non è così, perché 2011 più 12 mesi arriviamo aprile 2012 abbondante. Paolo, si fermi lì. Allora, Siracusano, Paolo ha ragione, dice, ma insomma, mi hanno detto il contrario, io maturo i requisiti quest'anno, perché le vecchie finestre non valgono per me? Ma infatti le vecchie finestre valgono, c'è un po' di confusione sullo slittamento dei 12 mesi. Ripeto, l'ascoltatore, essendo un lavoratore autonomo, che matura 40 anni di contributi, se non ho capito male, a settembre di quest'anno, sì. 2010, andrà in pensione con la finestra del 1 aprile dell'anno successivo, sono le vecchie finestre, quindi del 1 aprile 2011. Quindi a lui non è slittato niente in realtà? Assolutamente, quindi, no. Capire perché lui pensava che potesse andare in pensione a gennaio. Paolo, è ancora con noi? No, peraltro mi perdoni. Sì, ecco. Peraltro mi perdoni. Essendo un lavoratore autonomo, comunque lo slittamento non sarebbe stato di 12, ma di 18 mesi. In ogni caso, comunque Paolo. Sì, Paolo, voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire a questo vostro esperto che anche io pensavo che fosse così. Allora sono andato proprio al patronato. Sì. Loro fanno questa considerazione. Cioè, pur avendo maturato 40 anni a settembre di quest'anno, e sarebbe una intenzione il primo aprile dell'anno prossimo, dice tutto è accompato di 12 mesi, 12 e 6 fa 18, capisce qual è il problema? Cioè, e quindi le stanno dicendo che lei andrà in pensione nel 2012? Nel 2012, perciò per me questa riforma, se fosse vero quello che mi hanno detto gli esperti, ma guarda, allora io Siracusano, Paolo, allora io Siracusano non abbiamo capito niente, e allora io mi chiedo, insomma, secondo me, secondo noi le hanno dato la consulenza sbagliata. Poi se ha tempo magari ci scriva ed esamineremo un po' meglio il suo caso, però a noi non risulta che sia così, perché lei sta maturando i suoi requisiti quest'anno. Per chi li matura quest'anno valgono le vecchie finestre, punto. Qui è un punto senza nessun tipo di possibilità di errore, Paolo, per cui secondo noi può stare tranquillo, e poi ci mancherebbe altro pure. Andiamo a Flavia da Udine come ultima chiamata di oggi, forse anche un paio riusciamo a sentirne. Flavia, buongiorno, e qui torno buongiorno a Ciccarella, perché qua ritorniamo nella pubblica amministrazione. Buongiorno. Sì, sono pubblica amministrazione, appunto, sono insegnante di Stato. Sì. Nel 2012, al 9 gennaio, compirò 60 anni. Al 31 agosto, fine dell'anno scolastico, sì, come è considerato per i pensionamenti e per tutte le altre aziende, sì, avrò 40 anni di contributi tutti a ruolo. Mm-hmm. Vado in pensione o mi mandano in pensione a 65 anni? Nessuno sa rispondermi. Flavia, sentiamo Ciccarella. Sì, in pratica il raggiungimento del requisito dei 40 anni, che poi è la massima anzianità pensionabile, si matura il diritto alla pensione di anzianità. Lei è insegnante, quindi cessa il primo di settembre del 2012. Per gli insegnanti, come da previsione normativa, non si applicano le finestre a scorrimento, perché avete un'unica uscita, che è quella dell'inizio dell'anno scolastico. Quindi secondo me al compimento dei 40 anni, lei a febbraio o il 31 gennaio, se non vado errato, presenta la sua domanda di dimissioni per il primo di settembre 2012. Allora, io tra l'altro stavo ancora pensando, dottor Siracusano, al caso di prima dell'ascoltatore da Terni, per capire che cosa fosse successo in quell'ufficio a cui lui si è rivolto. Comunque, in tutto questo discorso sulle novità di cui stiamo parlando, la finestra di scorrimento, non abbiamo neanche mai citato, Siracusano, il sistema delle quote, che comunque rimane assolutamente invariato. Dal prossimo anno andrà in pensione chi matura la quota, e quindi questo mix fra contributi ed età anagrafica di 96, no? Se non sbaglio. Certo, il DL68 ha modificato semplicemente, dicevamo, le finestre di uscita. Sono rimasti fermi i requisiti sia della pensione di vecchiaia, ma anche di quella di anzianità, a cui appunto fa riferimento il sistema delle quote, che, lo ricordiamo, è una cifra che va raggiunta sommando l'età anagrafica e gli anni di anzianità contributiva. Per cui dal 1 gennaio del 2011 la quota, che attualmente è 95, con un'età anagrafica minima di 59 anni, dal 1 gennaio 2011 passerà a quota 96 con un'età anagrafica di minima di 60 anni. Perfetto, noi abbiamo terminato. Io vi ringrazio molto per essere stati con noi, per esservi spesi così bene anche a disposizione dei nostri ascoltatori. Vi richiamerò presto, perché a giudicare dal numero delle telefonate che sono arrivate c'è una fame di informazioni su questo argomento, e mi sono resa conto che qualche volta anche negli uffici, anche noi facciamo degli errori, per carità, e poi naturalmente analizziamo un po' meglio i casi, facciamo delle rettifiche, delle marce indietro, perché è inevitabile. Ogni caso è a sé, soprattutto quando si tratta di percepire la pensione. Allora, se non vi abbiamo accontentato a sufficienza, scriveteci, girerò le vostre domande a Siracusano e Ciccarella, se vorranno continuare ad aiutarmi. Intanto Salva Danaio torna domani, vi auguro una buona giornata.